Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Time to board. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Buonasera a tutti, questo è Now Boarding Radio su Radio San Donà su 102.200, un programma dedicato agli italiani all'estero. In particolare Now Boarding presenta una puntata Focus On, nella quale descriveremo e approfondiremo un tema con il buon David e Lorenzo. Ciao a tutti e siamo di nuovo tornati per una nuova puntata di Focus On e stasera sarà una puntata come sempre diversa dalle altre, perché non saremo in un posto particolare ma saremo in una specie di distributore di posti, come dire, ma non vogliamo anticiparlo, vero David? Giustamente. E facciamo partire direttamente il primo pezzo, così capiamo dove siamo. Notte newyorkese di Vinicio Capussella. Sì, poi magari la chiameremo notte nuochese. Giusto. Se mi prepare, faccio bello, esco fuori dall'hotel, tasche vuote, gran pretese. La strada è tutta luci, sottoterra stanno le fogne, esce fumo dal tombino e hanno tutti un'aria truce. Le strade sono tante, sono stritte pure larghe, un paese per ognuna, taxi prego la 31. Vuoi davvero da mangiare, da ubriacarti o da fumare, pizza caldo, cane caldo, tutto quanto puoi comprare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare, pure luna, mezzo mare. Smoke, smoke, coke, coke, striptease, pitties, sex, sex, forget, forget, baby, sex, sex, forget, forget, baby. E ti prendi una frittata, lei ha la coscia marmellata, mentre il negro che sta al lato è molto fatto e stralunato, il ragazzo Puerto Rico ti fa il segno con il dito, eh. Molto cattivo, luce verde sul bancone, lei ha i tacchi rossi e balla male, ma il cliente che le ronza mostra lenta la patonza, ma si vede che alla panza rughe, cosce, lift in trucco, è una vecchia di sostanza, è una vecchia di sostanza. Smoke, smoke, coke, coke, accento newyorkese di Vinicio Capossela, rieccoci in trasmissione. Allora, oggi parliamo di un portale che si chiama Nuoc. nuoc.it, che nasce appunto a New York. Che cos'è? È l'idea iniziale di due ragazzi di raccogliere il talento e le idee di italiani sparsi in tutto il mondo per fargli raccontare il mondo in cui vivono, le città in cui vivono, e fargli pubblicare contenuti riguardanti queste città o riguardanti appunto le loro esperienze. Poi il progetto si è evoluto, Nuoc è diventato un sito a mio parere bellissimo, un portale davvero ben fatto, e adesso ci scrive molta gente e oltretutto la visibilità del luogo è abbastanza accentuata, in quanto tutti vogliono intervistare i fondatori, la gente che ci lavora, fanno servizi dedicati appunto al portale Nuoc. Nuoc, oltretutto, il nome nasce da, diciamo, New York pronunciata da un bambino, non è vero, David? Giusto. E quindi abbiamo qui, noi abbiamo il piacere di avere il cofondatore di Nuoc. Presentiamo Leonardo. Leonardo, ciao, ci sei? Ciao a tutti. Abbiamo sbagliato qualcosa? Di presentazione, giusta? Sì, va benissimo, bravissimo. Perfetto. Perfetto. Quindi tu sei il cofondatore, mentre la fondatrice è Alicia Vallone, giusto? Esatto, esatto. Diciamo che il blog è all'inizio è nato come un blog, era un'idea di Alice che si era trasferita a New York da pochi mesi. E ci siamo conosciuti, io vivevo lì già da un po' di tempo, da un anno, uh-huh. E quando ho scoperto questo progetto ho subito deciso di collaborare con lei. Certo. E quindi diciamo che un piccolo blog nel tempo si è evoluto, ha raccolto molte adesioni da parte di altre persone che volevano scrivere, da prima New York, poi nel resto degli Stati Uniti e infine diciamo nel resto del mondo, Italia compresa. In tutte le cities, diciamo. Esatto. Ok. Per cui è diventato un vero e proprio magazine online in questo momento. Benissimo, allora prima di cominciare a parlarne, perché abbiamo una puntata bella su cosa, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo, come se non fossimo sazi di New York, un altro pezzo su New York che si chiama New York I Love You But You Are Bringing Me Down, degli LCD Sound System. Like a death of the heart, Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. Bentornati su Nowboarding, siamo in collegamento con Leonardo, al quale chiederemo qualcosa di questo progetto. Leonardo, ci sei? Sì, ecco. Ecco, a chiederti cos'è Nuoc e com'è nata l'idea di questo progetto. Allora, Nuoc è in questo momento un magazine online che racconta varie città del mondo ed è attraverso, diciamo, gli occhi di italiani giovani che vivono all'estero e che siano persone curiose interessate a raccontare appunto le loro città. E è nato sostanzialmente come un blog personale di Alicia Vallone, però da subito si sono unite molte persone, e io appunto fra i primi, ed era il 2009. Nell'arco di pochi mesi si è, diciamo, espanso e da New York a diverse altre città nel mondo, e quindi poi piano piano è diventato un vero e proprio magazine con una linea editoriale, con delle regole molto precise e anche con un seguito abbastanza rilevante. Sì, si tratta quindi di un lavoro o di un hobby? Beh, diciamo che quello che un pochettino unisce tutte le persone che lavorano, che collaborano con NUOC, è l'idea di fare in maniera professionale quello che è, diciamo, un prodotto che comunque è no profit. Quello che succede è che molti di noi lavorano in vari ambiti della creatività o della scrittura o del cinema e via dicendo, però siamo tutte persone che vorremmo fare anche altro e vorremmo farlo bene, e tante volte magari o il capo ufficio o le circostanze o le scadenze non ti permettono di fare queste cose in maniera adeguata nel tuo lavoro normale. Per cui abbiamo deciso di guadagnarci uno spazio in cui far vedere anche, se vogliamo, le nostre qualità e contemporaneamente giocare con chi ci segue, raccontando in maniera molto frizzante, molto pop, le città che viviamo. Quindi i contenuti pubblicati su NUOC sono dei più disparati, possono essere articoli, storie, come fotografie, anche video magari, no? In realtà diciamo all'inizio sì, era abbastanza generalista, perché l'idea era raccontare una città, le persone magari italiane che vivono in queste città e un po' le loro esperienze. Nel tempo abbiamo preso una direzione molto precisa e direi che oggi NUOC è una sorta di guida da viaggio online, e quindi in questo momento noi raccontiamo soprattutto i luoghi, raccontiamo un museo che può essere il MoMA di New York, e magari raccontiamo anche una specifica mostra che si sta svolgendo in quel momento, ma l'idea è di raccontare appunto dei luoghi, quindi ristoranti, musei, parchi e via dicendo. Attraverso la scoperta dei luoghi chiaramente poi si conosce non solo la città, ma anche un pochettino quelle che sono le iniziative della città. Soprattutto direi che quello che emerge è un po' anche l'occhio dei ragazzi che scrivono, che è un occhio chiaramente italiano, per cui diciamo se vi consigliamo un posto dove trovare un buon espresso a New York, potete essere sicuri che sia un espresso che un italiano può apprezzare. Certo, e inoltre c'è il marchio di NUOC, perché voi li selezionate i giovani che scrivono per il vostro portale? Sì, assolutamente. E in questo momento c'è una redazione composta da oltre 40 persone, però direi che sono... Quindi una redazione fissa, le persone collaborano in maniera fissa. Sì, diciamo che su 40 persone potrei dire che forse una trentina in questo momento sono persone che collaborano con noi da diverso tempo. Poi abbiamo anche un programma di internship, quindi un vero e proprio stage, dove periodicamente noi accettiamo candidature di persone che selezioniamo se diciamo le troviamo vicine al nostro stile e anche ai nostri interessi e se sono seriamente interessate al progetto. E quindi diciamo c'è anche una rotazione, per cui alcune di queste persone magari hanno bisogno di un stage per l'università, oppure sono, per dire, a New York solamente per 3 mesi o a Berlino, e quindi possono raccontare di queste città solamente per un breve periodo e magari poi non hanno interesse o necessità di continuare. Però devo dire che in realtà poi quasi tutti rimangono e la redazione si espande. Sì. Quindi devo dire che è possibile li seguiamo tutti. Sì, devo dire che il sito mi sembra molto molto ben fatto, molto curato, e sembra quasi che dà l'impressione che ci siano quasi dei soldi investiti dietro, invece no, cioè da quello che ci dici tu. Non capisco. È un piccolo mistero, però come fate? Sostanzialmente direi che si basa tutto sulla fiducia. Diciamo che NUOC, attraverso le sue regole, perché ripeto, gli articoli hanno un format molto preciso e le persone che collaborano devono rispettare delle scadenze, però tante persone vogliono collaborare perché ritengono che NUOC sia un ottimo portfolio magari per loro, ma soprattutto è un gruppo di persone che poi stabiliscono reali contatti e che diventano veramente amici. E noi conosciamo i nostri redattori a volte dopo un anno, dopo due anni che lavorano con noi, perché magari sono a Kyoto o a Toronto o a Melbourne e magari ci ritroviamo tutti a Milano per un brunch. Per cui alla base direi che c'è la fiducia. Detto questo, c'è anche la volontà, come dicevo prima, di mostrare a un pubblico di lettori che siamo in grado di fare delle cose e magari in qualche modo anche lasciar trasparire che nelle realtà dove lavoriamo potremmo fare delle cose migliori, mentre a volte non è possibile. Non è possibile in qualsiasi posto vi troviate? Beh, diciamo che per tanti motivi, per esempio in America le scadenze sono sempre molto strette, la competizione è altissima e magari a volte non riesci. Hai la tranquillità giusta. Esatto. E qui invece diciamo che i ritmi, pur essendo abbastanza scanditi in maniera molto seria, però ti permettono anche, insomma, un articolo ogni 10 giorni è un ritmo accettabile, per esempio, per parlando dei redattori, per dire. Certo, quindi è anche un modo per lasciare libera la gente di esprimersi sul vostro particolare format. Esatto. Voi cercate gente che sia nell'ambito della creatività in qualche modo, mi sembra di aver capito. Beh, diciamo che non c'è una regola, non è un problema. Ci sono stati, non so, architetti, ingegneri, un po' di tutto. Però devo dire che statisticamente la maggior parte delle persone che collaborano sono dei creativi e magari lavorano nella comunicazione o comunque in ambiti artistici. Però ripeto, non è una regola fissa. Quello che a noi interessa è l'occhio che hanno i redattori sulla loro città, la voglia di raccontare e poi anche ci deve essere una certa, come dire, simpatia a livello umano. Insomma, perché una cosa alla quale teniamo molto è che non ci piace tanto l'idea degli italiani in Italia o all'estero che si lamentano, che magari parlano male sempre di quello che accade o dei tanti limiti che ci vengono posti, ma la nostra idea è invece di lamentarci di creare qualcosa di bello e quindi di dimostrare che si possono fare delle cose belle. Quindi non ci sono articoli che dicono ah che palle qua a Londra il tempo è sempre brutto, oddio non riesco a trovare lavoro, la gente non mi capisce. Diciamo che tutte queste tematiche sono già affrontate ampiamente dai media normali in maniera più o meno garbata, più o meno approfondita. Quello che noi vorremmo fare è in qualche modo bypassare questo momento di critica. È chiaro che tutti noi abbiamo anche, come dire, delle convinzioni, magari ci lamentiamo per il lavoro che facciamo, per le persone con cui lavoriamo, sicuramente sia in Italia che all'estero, poi tutto il mondo è paese. Però questo non ci toglie dalla responsabilità. E se magari abbiamo un talento nella scrittura, nella fotografia, di esprimerlo e di regalare qualcosa agli altri. E credo che questa energia positiva sia uno dei tratti che più si percepiscono, perché poi anche le persone che si avvicinano a noi come lettori o anche come possibili redattori, devo dire che al 90% hanno questo tipo di atteggiamento. E quindi un po' è una selezione naturale. Diciamo che se fosse stato un sito di musoni, il nostro pubblico sarebbe stato un pubblico di questo tipo, che si lamenta e che magari ha più interesse a sfogare le sue frustrazioni piuttosto che raccontare cose belle o scoprire cose belle nel mondo. Bene Leonardo, allora andiamo un attimo a una piccola pausa lanciando la terza traccia, Slow Motion di Holy Ghost. Maybe you do, maybe you don't, better forget it. Out of the house, into the car, back to the ocean. Do it again in slow motion. Puntata dedicata a Nuoc oggi, il portale degli italiani che raccontano la loro città in tutto il mondo. E ritornati con Leonardo, il cofondatore. Allora, Leonardo, dunque, Nuoc è, diciamo, organizzato per diverse cities, che è scritto proprio S-I-T-I-S. E anche esatto. Le cities sono scritte in un, diciamo, un linguaggio un po' italianizzato. È una, diciamo, un'idea per fare un po', essere un po' alla mano nei confronti del lettore, o per, diciamo, rendere personale la cosa, questa? Guarda, diciamo che il nome del sito Nuoc è una sorta di contrazione molto giocosa della parola New York, che è la città da cui tutto è partito, e ci sembrava che noi lo raccontiamo sempre come la pronuncia della città attraverso le parole di un bambino, magari ancora non ha imparato a parlare. E questa metafora ci è piaciuta perché trasmette anche l'idea, diciamo, del bambino, della curiosità e anche un pochettino l'assenza di una serie di sovrastrutture che spesso magari ci ingabbiano e ci impediscono di vivere la vita serenamente con una certa leggerezza. E quindi è un modo per trasmettere, anche già a livello del nome, una certa leggerezza, questo direi. E poi le varie città, chiaramente per un motivo anche di rimanere organici nel progetto, sono state storpiate sempre idealmente secondo la pronuncia di questo ipotetico bambino, e magari tante volte ci siamo appoggiati anche a quello che poteva essere il dialetto della, certo, città. Quindi ci sono parecchie città che voi già riuscite a coprire con una certa cadenza, credo. E sì, ho visto, esatto, c'è la mappa con tutti i posti inarrettati che voi riuscite a coprire, e devo dire che ogni continente ha i suoi riferimenti, no? Sì, assolutamente. Abbiamo redattori praticamente in tutto il mondo, che detto così fa molto figo. Sì, sembra una specie di BBC internazionale. esatto, diciamo, si presenta molto bene. E la verità è che è tutto spontaneo, nel senso che raccogliamo adesioni e raccogliamo soprattutto candidature da tutto il mondo. Ci sono periodi in cui riceviamo anche 10-15 al giorno, e quindi questo ci dà la possibilità poi di scegliere determinate città che sono più o meno interessanti, più o meno battute. E in questo momento abbiamo Shanghai, fino a poco tempo fa avevamo Kyoto, abbiamo Toronto, e comunque l'idea è di, in qualche modo, anche di seguire quelli che sono i nostri collaboratori, perché magari si trasferiscono da una città all'altra. New York, per esempio, è una città di passaggio dove si può stare un anno, due, magari tre, ma poi sono pochi quelli che veramente rimangono a vivere. E quindi questo è stato l'inizio, ed è quello che ci ha portato ad allargare le città, perché tante persone brevissime che amavano il sito, conoscevano il format, poi andavano a vivere in altri posti del mondo, e noi volevamo avere un contatto con loro volevano continuare a scrivere, e in qualche modo è stato tutto molto, molto spontaneo e giocoso, vorrei dire. Avete una possibilità, un indicatore che permetta di capire quanta gente vi segue? Quanta gente partecipa al vostro blog? Allora, se parliamo della redazione, in questo momento abbiamo una quarantina di redattori, e le città coperte sono più o meno altrettanti, insomma una quarantina. E se parliamo invece di lettori, diciamo che ormai siamo attestati sui 100.000 lettori unici al mese, e quindi questo vuol dire che ogni giorno credo che non scendiamo mai sotto i 3.000. però poi magari si sale anche a, si raddoppia anche questo numero, è a periodi, però direi che questi sono un po' i numeri. E per arrivare a questo risultato quanti anni ci sono voluti, Leonardo? Ci sono voluti oltre 2 anni, perché il sito è nato nel 2009, ma ripeto, per i primi 3 mesi, forse anche i primi 6 mesi, era veramente un blog ed era unicamente su New York. Direi che dall'estate del 2009 o dalla fine del 2009 abbiamo cominciato ad allargarci, certo, ad altri continenti. Comunque non ci avete messo molto a diventare grandi, secondo me. ma avete deciso di occupare le vostre speranze, il vostro tempo, perché vedevate dei feedback già considerevoli già dall'inizio, oppure è stata una cosa proprio fatta al buio? Guarda, direi che la spinta essenziale è l'energia spontanea, la voglia di creare qualcosa di bello. Detto questo, abbiamo avuto tanti riconoscimenti, perché una cosa che veramente ci ha molto sorpreso: dopo forse 2 o 3 mesi il New York Times ci ha segnalato. E nonostante avessimo una sezione inglese veramente minima, a livello di un articolo ogni 10 era in inglese. Poi dire, in seguito abbiamo anche deciso di rimanere solamente sugli articoli italiani, perché ci sembrava una linea editoriale più coerente e anche più affine a quello che era il nostro pubblico. Certo. Però, come dire, il New York Times ti nota, ti dà una buona spinta, e poi devo dire che sono seguite anche tante altre segnalazioni. Non male. Sì, diciamo che se ti nota il New York Times vuol dire che come minimo stai facendo le cose bene, ecco. Quindi diciamolo, se le cose si fanno bene si emerge in qualche modo. Tu ne sei convinto, Leonardo? Io penso di sì, penso che dipende dagli anni. Non è solo fortuna? No, assolutamente, la fortuna deve essere sempre aiutata. Ci vuole tanta volontà e sicuramente ci vuole anche fortuna, perché insomma... E ci vuole che il redattore del New York Times, noi non avevamo nessun tipo di raccomandazione, di segnalazione, capiti sul nostro sito e legga l'articolo giusto e gli piaccia, e quindi magari ci rimanga, se lo studi e decida di scrivere qualcosa. Però detto questo, credo che conti tanto la volontà, e secondo me sia in Italia che all'estero. Poi in ogni posto ci sono i pro e i contro, però penso che sia una situazione diffusa. Sì, allora un'ultima cosa, diciamo, secondo te come si svilupperà il sito in futuro? Avete un progetto chiaro di ampliamenti o di idee nuove per potenziarlo? Beh, diciamo che un passo importante adesso è stato tutto il restyling grafico, che è stato fatto da un'agenzia molto importante di Milano, che insomma tra l'altro ci teneva ad avere con noi un rapporto, quindi abbiamo avuto... Questo è stato un importante aiuto, perché ci ha anche permesso di rendere più chiara quella che è la linea editoriale. Infatti ti dico, il sito secondo me è veramente fatto bene, veramente. Sì, sono un'agenzia che si chiama Web Sushi milanese, so che ha collaborato anche nella creazione del sito Il Post di Luca Sofri, quindi sono veramente a un ottimo livello. E detto questo, a livello di contenuti, da una parte credo che fin quando le nostre energie ce lo consentono, perché seguire 40 persone è veramente un grande impegno, però poi piano piano, come dire, si impara e ognuno si autoregolamenta, quindi è un percorso che si fa insieme. Però penso che piano piano ci potremmo allargare ancora di più. E un'altra cosa, noi siamo, diciamo, aperti a proposte che siano in qualche modo legate, attinenti alla nostra linea editoriale, al nostro prodotto. Faccio un esempio molto breve: l'artista Silvia M, che è la ragazza che praticamente dipinge con la sabbia, credo che abbia fatto uno spot molto famoso per, non so se anche per la Rai, per un'altra società, Leni, insomma è un'artista famosa a livello internazionale. Quello del Leni me lo ricordo. Esatto, è molto brava. Lei ci ha contattato, ha visto il sito, era innamorata e ha voluto fare un piccolo spot per noi, e chiaramente noi siamo stati felicissimi, abbiamo collaborato con lei a questo spot. Poi stiamo lavorando anche ad altri piccoli progetti, come dire, non necessariamente quindi editoriali, e poi anche tra poco dovremmo avere un'applicazione iPhone pronta. Quindi diciamo, noi ci muoviamo per quello che è possibile, e se c'è qualcuno che ha delle idee serie, interessanti, ma soprattutto legate al nostro format, noi siamo aperti, quindi lasciamo le porte aperte a eventuali proposte. Benone, ti ringraziamo Leonardo e lanciamo la prossima canzone per presentare la prossima ospite. I'm Waiting for the Man, Velvet Underground. Eccoci tornati, continuiamo a parlare di NWOC, ma cambiamo punto di vista, dal cofondatore a, diciamo, un nuovo membro che si è aggregato ultimamente, o comunque non da molto. Siamo qui con Giulia. Ci sei, Giulia? Ci sono, ciao. Ciao, allora, vecchia conoscenza, perché ha già fatto parte di una puntata di Focus On che era dedicata alle startup berlinesi, ma oggi ci parla di NWOC. Allora Giulia, tu da quanto lavori a NWOC? Allora, io ho iniziato ad ottobre del 2010, quindi facciamo i conti, un po' di più di un anno, ecco. Ah, ok, quindi, ok, ho sbagliato. Sì, non sono proprio una conoscenza nuova. No, ok, perfetto. E quindi sei dal fine 2010, e com'è che l'hai trovato? Com'è che ti sei trovato, allora, a dover scrivere per NWOC? Io ho letto per la prima volta di NWOC, ho scoperto che cos'era grazie ad un piccolo articolo che era apparso su Wired. E a quel punto, allora, siccome il progetto era interessante, ho iniziato ad essere una lettrice, ho iniziato a seguire il sito e soprattutto a seguire NWOC su Twitter. Ed è stato lì un giorno che ho visto una call per la ricerca di nuovi redattori. Ho provato a mandare un articolo su una delle città in cui avevo vissuto, in questo caso Barcellona, e allora da lì ho iniziato a collaborare, prima per Parigi e adesso per Berlino, perché abito qui. Certo, e quindi tu mandi articoli, magari ti occupi anche di rassegne che ci sono a Berlino e... riguardo a cosa scrivi di solito? Hai un argomento preciso oppure vari in base alle cose che ti vengono in mente? No, allora, al momento nel sito abbiamo diverse categorie che variano dagli urban safari, noi li chiamiamo così, cioè sono passeggiate all'interno di quartieri o comunque di zone delle città in cui viviamo, a articoli più dedicati, diciamo, a locali, bar, ristoranti, fino ad arrivare a cose, diciamo, a musei, quindi cose più culturali, e ad arrivare appunto alla fine a locali notturni, comunque alla vita notturna della città in cui siamo. Mm-hmm. Quindi io non seguo un ordine in questi articoli, io semplicemente vado in giro con la macchina fotografica, entro in un ristorante, lo provo, se mi piace, se penso che sia un posto che può piacere ad un nuoker e da un lettore di NWOC, allora lo recensisco, altrimenti no. Ok, quindi non è che se non ti piace ne parli male, ma semplicemente non ne parli. Io sostanzialmente sì, se non mi piace lo ignoro. Certo, indifferenza è l'arma migliore. E sei l'unica che scrive per Nuoc di Berlino o ci sono altri tuoi colleghi? No, allora a Berlino siamo in due, ci sono io e c'è Corinne, che è una Nuocer di qualche mese, diciamo, è entrata da qualche mese. È appena nata. Sì, diciamo di sì, è giovane. E quindi siamo in due e noi parliamo appunto ovviamente tra di noi, ci diciamo che cosa ci piacerebbe recensire, dopo ovviamente averlo concordato con Alice e Leonardo, e quindi è un continuo, diciamo, parlare tra di noi per scambiarci opinioni, impressioni, anche consigli su cose da provare e cose da non provare. Ok, e come funziona l'organizzazione del lavoro? Cioè, nel senso, voi inviate gli articoli via internet, avete delle scadenze, oppure non so, diciamo, chi gestisce le pubblicazioni vi dice dovete pubblicare l'articolo tot entro questo giorno, oppure è no, tutto allora... molto libero? Noi dobbiamo pubblicare un articolo più o meno ogni 10 giorni, non importa che sia sul un ristorante o un locale, come dicevo prima, dobbiamo pubblicare, diciamo, un articolo ogni 10 giorni. Di solito funziona così: quando ci viene in mente un argomento, ci sentiamo con Alice e Leonardo o con uno dei due, concordiamo, pensiamo se può essere in linea con Nuoc. E dopodiché lo scriviamo in come bozza all'interno del sito, e poi viene revisionato per la ricerca di eventuali refusi o quant'altro, e dopodiché viene programmato e pubblicato. Ok. È tutto quindi... molto veloce, molto... diciamo, molto alla mano, molto Nuoc, esatto, molto veloce, molto semplice, non ci sono molto Nuoc. Io dico, esatto. Molto Nuoc. Ok, ma hai conosciuto, quanti Nuocers hai conosciuto? Allora, io è stato strano perché ho scritto per un anno per Nuoc senza vedere nessuno di loro. Ovviamente ci sentiamo, ci parliamo, ma non ho visto nessuno di loro. Potevano anche non esistere, magari tu stavi scrivendo per nessuno. Esatto. E poi a ottobre del 2011 ho conosciuto Corinne, che era qui a Berlino, e dopodiché tutti gli altri sono arrivati a valanga. Ah, ok. Sono andata poi in vacanza a New York, dove ho conosciuto Anna Maria, Enrico, Benedetta, Lucia e Valeria, poi ho conosciuto a Milano Lorenzo, e poi recentemente Alice e Beatrice sono venute a Berlino, abbiamo fatto una cena qui. Quindi Leonardo non l'hai ancora conosciuto? No, non l'ho ancora conosciuto. Ah, aia, è un problema. Beh, potreste incontrarvi a Radio San Donà, insomma. Beh, potrebbe essere un'idea. sarebbe un posto comodo per voi, penso. Va bene, e tu Giulia, sì. Cosa consigli, a chi consigli di diventare un Nuoker? Nel senso, quali sono diciamo, gli elementi che contraddistinguono un Nuoker a livello creativo, a livello di modo di pensare, insomma, in cosa ti senti Nuoker te? Allora, anche sul nostro sito c'è scritto che il Nuoker è un giovane italiano curioso, ironico e viaggiatore. Io curiosa lo sono. Ironica direi anche, giovane, vabbè. No, non fare una presentazione come The Club, per favore. Sono solare. Sei solare, sì, i tre aggettivi soliti mi sembrano. No, a parte gli scherzi, come diceva prima Leonardo, a noi non piace lamentarci, nel senso che un elemento che arriva in una città e parla male della città in cui che lo sta ospitando, non è un Nuoker, è una persona, diciamo, un po' scontenta. Deficiente. Anche perché comunque io faccio sempre l'esempio, io ho vissuto oltre a Parigi, a Berlino, ho vissuto anche a Barcellona. Non mi è piaciuto vivere a Barcellona, però non ti posso dire che è una brutta città, perché non è vero. Io ti dico, la mia sensazione è stata non amichevole tra me e Barcellona, non c'è stata amicizia. Benissimo, su questo rapporto non amichevole noi dobbiamo purtroppo chiudere, perché Francesco mi sta per tagliare i viveri. Vi chiediamo sì qualche contatto, a parte il sito che è nuoc.it, e se avete qualche altro contatto aggiuntivo da dare. Giulia, Leonardo, Giulia, vai. Vai prima tu. Sarebbe il il contatto per chi vuole diventare nuoker, per chi vuole provare a diventare nuoker. Prendete carta e penna. Francesco sta allora, già scrivendo. Mi corregga Leonardo se sbaglio, ma deve essere inviata una mail con un articolo di prova e delle foto anche all'indirizzo, se non erro, touch@nuoc.it. Okay. Esatto. L'articolo, le tre foto e anche un breve curriculum, giusto per farci sapere chi sono queste persone. Benissimo. Leonardo, hai qualche altro contatto da dare? No, direi di no. Direi okay. Chi è interessato di fare un giro sul sito e farsi un'idea. Benissimo, è perfetto. Tutto. Quindi. Allora lanciamo i nostri contatti. Ricordiamo che siamo su Radio Sandona in FM sui 102.200. Il sito della radio è www.radiosandona.it senza accento. Il blog www.nowboardingradio.wordpress.com. Trovate la nostra pagina in Facebook scrivendo Now Boarding Radio. E ricordiamo infine la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. Un grazie di cuore a grazie Giulia, a tutti. Leonardo, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Quindi stiamo già diventando tutti nuoc, mi sembra. Francesco vuole già cambiare redazione. E andiamo con l'ultimo pezzo che avete scelto voi, è I'm Afraid of Americans dei buoni Trent Reznor e David Bowie. Oggi sono dislessico. Ciao Giulia, ciao Leonardo, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonas in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid. weight of the world.